Buongiorno, bentornati in studio, radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Io sono Marco Segato e oggi c'è con me un ospite speciale perché sta per cominciare una bella rassegna teatrale qua a Bologna, ovvero Femminologica. E oggi con me per parlarne ho Simona Sagone, che non solo è attrice ma anche direttrice artistica. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a tutti e a tutte. Volevo subito chiederti di raccontarmi appunto di che cosa si tratta, raccontarlo ai nostri spettatori, di invogliarli a vedere questa rassegna molto importante. Intanto è l'ottava edizione di Femminologica e il tema di quest'anno è immaginare il cambiamento. Il progetto nasce all'interno di un progetto più vasto per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, sostenuto anche dal Tavola Valdese con l'8 per 1000. Si intitola Le donne fuori dall'angolo, immaginare il cambiamento. Quindi utilizziamo il teatro un po' come strumento di lotta politica, tra le altre azioni, questa di Femminologica. Cerchiamo di poter, attraverso questi eventi, attraverso le riflessioni che suscitiamo nel pubblico, di smascherare le radici del patriarcato, di aprire anche spazi di immaginazione collettiva per programmare insieme un mondo più giusto, più uguale, più paritario per tutti e tutte. E lo vediamo anche che il patriarcato non è morto, lo vediamo dai titoli di giornale anche di questi giorni, nei comportamenti quotidiani di tanti uomini, ma anche donne che hanno assorbito con l'atto materno tutto quello che è appunto, chiamiamo così, per riassumerlo con l'etichetta di patriarcato. Questa roba qui è fatta di tanti stereotipi, fatta di comportamenti, fatta di pensieri che vogliamo andare un po' a smontare, e ci proviamo appunto con degli eventi che sono ogni giornata, sono 7 giornate, cominciamo oggi 29 agosto, ogni giornata un talk, un incontro, e poi alle 21 uno spettacolo su temi collegati. E quindi questa sera aprirà la rassegna Angela Malfitano con Intorno alla Ciociara, che è uno spettacolo con Live Electronics, poi di Francesco Brini, cui andiamo dentro e fuori, andrà Angela Malfitano dentro e fuori il set di De Sica, il famoso film La Ciociara che vinse l'Oscar 60, partendo dal romanzo di Moravia. E intorno alla Ciociara anche noi abbiamo costruito il talk che sarà Stupro come arma di guerra. In questi giorni sentiamo purtroppo tristemente parlare di un'altra arma di guerra terribile, che è la fame, ma tra le armi di guerra usate nelle guerre contemporanee, non solo, perché partiamo dalla memoria storica delle cosiddette marocchinate, appunto in Ciociaria, è stato dato libertà per 48 ore a condottino di guerra di commettere questi stupri agli eserciti, e quindi è uno strumento non nuovo, purtroppo, in cui da sempre le donne sono state usate come bottino, come appunto come rival verso il nemico. Quindi parleremo di stupri oggi e nella storia. Lo faremo con la storica Olga Massari, con Barbara Frattini e Alain Contaret, che sono ambasciatori di pace dell'Osservatorio dei Diritti Umani Italia. E questa sarà la giornata di oggi, che però si è già aperta con la mostra, che andrà avanti fino al 13 di settembre, la mostra Le donne del circo, che è aperta nella sala Emma Casari della biblioteca Tassinari Clò, e negli orari di apertura della biblioteca e negli orari serali del festival. E il 2 settembre sarà tutto dedicato al circo. Alle 18:30 inaugureremo ufficialmente la mostra con anche il Centro Documentazione Arti Circensi, CEDAC, e col direttore di CEDAC Antonio Giarola e la ricercatrice Giamila Aspa vedremo proprio delle donne nel circo, circensi dimenticate del passato, che però sono state grandi nella loro epoca. E finiremo alle 21 con lo spettacolo Madame Brulé, che è la vie di Virginia Viviano, che viene dalla Sardegna, con uno spettacolo di teatro circo comico grottesco adatto a tutta la famiglia, e del teatro circo Maccus. E poi andrò in scena io invece il 4 di settembre con noi dell'associazione Cali con Medea, però la Medea di Marie Claboggio, scritta nel 1981, una Medea femminista, in cui Medea ha fatto, diciamo, il bagno nelle assemblee femministe degli anni 70, e grazie alla solidarietà con le sorelle riesce a eliminare la violenza a non averne più bisogno di vendicarsi su lei, né su lui, né sui figli. C'è l'amore, diciamo, per vincere la libertà, il ricostruire se stesse, il rapporto con le altre donne, mantenendo l'amore per i figli invece che la vendetta su tutti. E ne parleremo invece nel talk con Alessandro Iannucci, professore ordinario di lingua e letteratura greca, comparando la Medea di Euripide con appunto la Medea femminista di Marie Clavoggio. E poi proseguiremo il 9 di settembre con un talk mettendo a confronto diverse idee femministe, diversi modi del femminismo contemporaneo, con Sandra Capri, ricercatrice indipendente femminista, e la giurista Maria Teresa Semeraro. Guardi differenti dal transumanesimo fino invece a quegli approcci delle femministe storiche sui femminismi. Questo è stato fatto perché lo spettacolo che seguirà, Donna libera, dalla teoria di Ornella Vanoni a King Kong di Roberta Lidia De Stefano, uno spettacolo tragicomico con musica dal vivo. Roberta lei stessa suonerà, canterà, interpreterà monologhi della vagina, sarà uno spettacolo molto allegro, citando però alcune, diciamo, teorie femministe contemporanee. Poi andremo al 12 settembre con una riflessione sugli stereotipi di genere sclerotizzati dal mito antico, quindi le radici del pregiudizio, i stereotipi di genere nei miti antichi. Ne parliamo con la professoressa ordinaria di storia romana dell'Università di Bologna, Francesca Cenerini, poi con Michela Menegatti e Silvia Moscatelli, che invece sono professoresse associate a psicologia. Cento un po' ci sarà la figura di Penelope, anche del talk, Penelope, Medea ed Elena, come stereotipi che ci siamo portati fino al contemporaneo, e lo spettacolo Penelope Sound Memory, studio per una drammaturgia sonora di Patrizia Mazzioli, il suo il progetto e le musiche di scena eseguite dal vivo con l'attrice Sandra Soncini, ispirato al canto di Penelope, famoso della Atwood. Il 16 di settembre torneremo in scena noi di Lucali con uno spettacolo tutto su Francarame, le donne di Francarame, il comico e il crudo, quindi due atti unici. Francesca Fugliano, collega di Barriere Zero, porterà in scena Lo Stupro, il famoso monologo di Francarame, che racconta la violenza che lei stessa ha subito. A seguire invece Abbiamo tutte la stessa storia, che invece è un monologo surreale, comico, esilarante, che ci fa vedere come veramente tutte noi donne abbiamo un po' questa storia. Al centro c'è, in maniera comica, il tema dell'aborto. E allora abbiamo deciso anche di sviscerarlo come tema molto attuale per tutte le censure sull'aborto e i tentativi di bloccarlo in Italia e mondo, vediamo anche negli Stati Uniti, stati in cui non è più possibile praticarlo. Quindi parleremo aborto e censura, il diritto di decidere con Non una di meno, e anche Loretta Serra del direttivo di Bologna. E diciamo che l'aborto è uno di quei temi su cui tutte le femministe, tutti i gruppi, anche pensando in modi differenti, invece sull'aborto andiamo a portare acqua tutti sullo stesso mulino per non dover arretrare. Vediamo che in questi giorni si discute della legge sul fine vita, in cui ci stanno infilando delle restrizioni al diritto di aborto. Anche l'idea di che sia un diritto è messo molto in discussione, ma per noi lo è. Il 18 di settembre invece guarderemo dentro il mondo dello spettacolo, alle disuguaglianze all'interno del mondo dello spettacolo, per rompere il silenzio sul sessismo, la violenza e discriminazione che ci sono anche dietro le quinte. Perché se è vero che ci sono delle nomine importanti come Allerta, di direttrici, artistiche, presidenti, ma delle nomine non fanno primavera, ancora il potere è saldamente in mano a degli uomini che decidono chi e come, chi lavora e come lavora, e se e quando lavora, di donne. E quindi ne parleremo con Amleta, il collettivo Amleta nato a Roma, verrà l'attrice Alessia Bedini, e discuteremo di questo. E chiuderemo invece con lo spettacolo alle 21 After Coppia, che è come il Gabbiano ma 20 anni dopo. Le donne del Gabbiano, Nina e Arcadina, raccontate da Chekhov, 20 anni dopo discutono e parlano di sé, appunto, after dopo coppia. In scena ci sarà la mitica Alessandra Frabetti, mia ex insegnante di teatro, e Sara Biacchi, la drammaturgia contemporanea di Lidia Castiglioni, e il regista che torna da Avrodio, dove ha debuttato quest'estate con uno spettacolo, Alberto Oliva. Questo è un po' tutto il programma ricco, diciamo, di quest'anno, oltre alla mostra. Saremo all'anfiteatro di Villa Spada, al monumento delle 128 cadute partigiane, che un po' vogliamo custodire e rendere vivo, perché ce lo siamo presi a cuore come Lucani, insieme ad Ampi, insieme a tante altre associazioni di Porto Saragozza, e lo custodiamo proseguendo l'opera della sua creatrice, Letizia Giallina Stuccato, che l'ha progettato, l'architetta che l'ha progettato e realizzato, realizzandoci dentro un anfiteatro proprio perché fosse partecipato. I biglietti sono popolari, 12 euro il biglietto singolo, 60 euro per vedere tutti i 7 spettacoli. Si può prenotare agli indirizzi di Lucali, li trovate anche su www.lucali.it, dove trovate anche le indicazioni caso pioggia. Saremo al parco se piove, ma abbiamo due spazi in date diverse, due spazi, il centro costo o il centro tassi, per ripararci al chiuso se dovesse piovere. Beh, così non c'è neanche la scusa del meteo per saltare, e proprio su chi potrebbe voler trovare una scusa per venire. Avevo visto anche che in alcuni comunicati stampa si parla proprio del discorso di lotta che deve passare anche attraverso gli uomini, ovviamente, perché essendo tutti parte di un sistema c'è bisogno che anche noi uomini si prenda la responsabilità delle proprie azioni. Proprio su questo volevo domandarti come è stato pensato questo aspetto nel momento della creazione, dell'ideazione, anche, mi saprei dire, da direttrice artistica, proprio di questa rassegna. Noi pensiamo, come ricorda anche Belux, che abbiamo citato, il femminismo è per tutti, lei lo scriveva, in questo caso è tradotto col generico maschile plurale, che di solito non usiamo perché usiamo magari cose più inclusive ancora, anche oltre il binarismo di genere. L'abbiamo pensato con del teatro che non è scritto solo per le donne, cioè quel teatro è teatro che può piacere assolutamente a tutti e tutte, come si dice, tutto o tutto. Non è una rassegna con noi invitiamo solo le donne, ma anche tu, che poi ci sembrano temi assolutamente di attualità, che interessano appunto tutti i generi, oltre i generi. Noi pensiamo che la proposta sia diretta a tutti e tutte, e vogliamo coinvolgerli, ma coinvolgerli in queste riflessioni, partire dalle nostre storie, fargli conoscere l'altra parte della storia, perché storia sui libri di testo è narrata spesso solo dalla parte maschile, appunto andando a lavorare anche su testi classici in modo contemporaneo, su autrici contemporanee. Vogliamo proporre un altro sguardo, un altro punto di vista. Per millenni abbiamo ascoltato a teatro, a cinema, ovunque, il punto di vista maschile, e andavamo a teatro pure noi donne, ascoltare appunto Chekhov, Euripide, o qualunque altro autore che finora abbiamo, Pirandello, che so, che abbiamo visto a teatro. Ora li chiamiamo a vedere semplicemente un punto di vista, un protagonismo femminile, come direttrici artistiche, come attrici, autrici in scena. Chiediamo di mettersi in ascolto e di fare le loro riflessioni. Poi speriamo che qualcosa nelle teste si muova. Certo, magari chi arriva lì è già convinto, ha già un suo pensiero, però si può allargare, si può dire qualcosa che prima non si sapeva, non si conosceva, e che vengono solo le femministe ultra politicizzate, cioè viene, invitiamo la cittadinanza tutta, e invitiamo anche bambini e bambine, spettacoli per esempio come quello di circo, o anche altri che sono assolutamente adatti ad essere visti anche da minori. E quindi, come diceva oggi anche alla fine alla conferenza stampa, sì, è vero, anche noi facciamo un'opera anche formativa del pubblico, proprio perché li portiamo davanti a dei temi che magari in altre rassegne comuni, nel senso di generaliste, magari non affrontano specificamente questi temi, quindi li portiamo a riflettere su questo e farci un pensiero.